Se non l'hai vissuto non lo puoi raccontare. Vento, questo sentimento che mi spazza via e mi fa volare alto senza compagnia. Mi manda in confusione, poi mi sposta altrove. Ti domandi ancora perché io abbia il fiammento. Lo vorrei fermare, ma solo una bugia. Ma da dove viene tutta questa energia? Questa voglia matta in mezzo a questa folla. Solo i nostri occhi sono uniti come colla. Io sono il vento e lo sai. Seguimi e non ti pentirai. Per Roberta Giallo. E salutiamo anche la nostra carissima Mia, che è un po' che non vediamo a Coxo Spaziale, e anche Fedra, fra l'altro, che ho sentito qualche tempo fa. Speriamo di riaverle, anzi in realtà avevo una mezza intenzione di cercare di organizzare una puntata in cui Fedra, Mia e Chiara si uniscono a me e facciamo un coxo con tutti i conduttori passati, sarebbe bello. Comunque, detto questo, non c'è tanto da raccontare oggi in questa puntata di Coxo Spaziale. Ieri sono stato in Sala Borsa, c'era questo festival, questa fiera, diciamo, che si chiama Mag to Mag, dove si presentavano tantissimi magazine, super super cool, organizzata da Frabs, che è se non sbaglio un magazine di Forlì, e non sapevo nulla di questa fiera, infatti mi dispiace un po', e vabbè, adesso la prossima volta che ci sarà in Sala Borsa avremo modo di raccontarla in maniera più approfondita. Cosa succede? Niente, che dunque, il 25 aprile, forse ve ne siete accorti, forse no, ero in fondo a Via del Pratello davanti al concertone e per un paio d'ore ho fatto la diretta, e anzi ringrazio il direttore Alessandro Canella che mi ha permesso di essere live poco prima di Rachele e poco dopo Alessandro Brighetti, compagno artista con cui condividiamo tante esperienze d'arte contemporanea. E dicevo, e vi ho fatto sentire, c'è stato un buco e dunque vi ho fatto sentire questo pezzo di Forse Frasca chiamato Felpa Bianca, e siccome mi è piaciuto, adesso ve lo faccio sentire di nuovo, poi magari vi racconto anche di cosa tratta. Ascoltami, lo so che vuoi dormire, ma rischio di impazzire senza dirti che ho sbagliato troppe volte. Ti chiedo scusa solo di notte, e fare sesso non fare pace, però Dio quanto ci piace. E chissà se ancora le mie foto nella stanza, e chissà se fai ancora il caffè mentre sei scalza, se studi, ridi e piangi, se leggi i miei messaggi, se l'inchiostro sulla pelle lo copri con la mia felpa bianca, con la tua felpa bianca. Se quella felpa larga mi manca già, ti giuro, lo so che non dovrei parlarti, che ora c'è quello, quella faccia da scemo, ma come fate a baciarmi? Ma come fai a non ridere quando lo guardi negli occhi? Come rido io davanti agli specchi, maledetti specchi. E chissà se ancora le mie foto nella stanza, e chissà se fai ancora il caffè mentre sei scalza, se fumi, ridi e piangi, se leggi i miei messaggi, e se l'inchiostro sulla pelle lo copri con la mia felpa bianca. E se ti chiamo lo so che finirò nei guai, ma nel tuo nuovo letto io non ci sono stato mai. E chissà se ancora le mie foto nella stanza, e chissà se poi anche con lui farai la stronza, se esci, bevi e piangi, se leggi i miei messaggi, e se l'inchiostro sulla pelle lo copri con la mia felpa bianca, con la tua felpa bianca. Se quella felpa larga, ridammela. Questo era Felpa Bianca, appunto, di Forse Frasca, che è disponibile sulle piattaforme digitali con Artist First dal 21 aprile, per cui l'abbiamo suonato abbastanza in fretta. Il brano del giovanissimo cantautore, dice il comunicato stampa, di origine molisana e di stanza a Roma, è il racconto malinconico della fine di una storia adolescenziale che si sviluppa con leggerezza su un tappeto sonoro squisitamente pop, curato da Matteo Gabbianelli, e un ritornello che non va via dalla testa. Adesso vediamo, l'ho suonato due volte su Radio Città Fujiko e vedremo se vi andrà via dalla testa. Sono Paolo Astei e sto ascoltando Coxo Spaziale. Ciao, sono Paolo Astei e anch'io ascolto Coxo Spaziale. Everywhere you think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Everything is never as it seems. Lightning bugs, as they tried to teach Un altro pezzo che vi ho suonato il 25 aprile era un pezzo dal nuovo album Higher Vibration di Zoe Maza e incredibilmente le ho chiesto, cioè l'abbiamo intervistata, le ho chiesto su WhatsApp, le ho fatto una domanda un po' impertinente, scusate la motocicletta che passa di fianco al mio studio in questo momento, e una domanda un po' impertinente, le ho chiesto qual era il cuore del suo album e lei mi ha risposto così. Well, you know, the core or the motivation of my new album Higher Vibration is that I wanted to make something beautiful, something to uplift the spirit in this hard and difficult times we hear. I felt I wanted to give you songs that make your days better, that make you feel encouraged to keep going, and that give you something like a time out, you know, like a beautiful little break from the everyday life, and I hope I succeed. Higher vibrations only, right? La traduzione di queste parole in inglese ve le faccio fare, la faccio fare direttamente a Google Translate, che è il suo bello, è capace di leggere la voce di Zoe e anche di tradurla in italiano, un po' così alla boia di un Giuda, ma neanche male, e poi appunto dircele dal vivo in questo modo. La motivazione del mio nuovo album, Higher Vibration, è che volevo fare qualcosa di bello, qualcosa per elevare lo spirito in questo cuore e nei momenti difficili che sentiamo. Ho sentito di volerti dare canzoni che rendano migliori i tuoi giorni, che ti facciano sentire incoraggiato a andare avanti e darti qualcosa come un timeo, sai, come una bellissima piccola pausa dalla vita di tutti i giorni, e spero di riuscirci. Solo vibrazioni più elevate, giusto? Dopodiché ci andiamo ad ascoltare, la volta scorsa avevamo ascoltato un altro pezzo, il 25, ma stavolta ci andiamo ad ascoltare Boogie Rock, che spacca, sentite qua. Strictly positive vibes. My daddy used to play his favorite record Saturday night, and this is what he said. Baby girl, come dance with me, I'll show you how to move. Left foot, right foot, turn around, this is how it goes. Move your body, let the rhythm take control. Music, ready now, let's go. Boogie woogie, dance, dance, rock steady, dance. I wanna dance with my baby tonight. Boogie woogie, dance, dance, rock steady, dance. I wanna dance with my baby tonight. dance with my baby tonight. Boogie woogie dance, dance, rock steady dance. I wanna dance with my baby tonight. Whenever I hear daddy's songs, it's like a warm embrace. I feel the love, I feel the joy, sweet childhood memories. If you don't know how to dance, I show you how to groove. Left foot, right foot, turn around. This is how it goes. Boogie woogie, rock steady dance. Boogie woogie, rock steady dance. Boogie woogie, rock steady dance. Let's dance. Move your body, let the rhythm take control. Feel the music, ready now. Let's go. Boogie woogie dance, dance, rock steady dance. I wanna dance with my baby tonight. Boogie woogie dance, dance, rock steady dance. I wanna dance with my baby tonight. Boogie woogie dance, dance, rock steady dance. I wanna dance with my baby tonight. Boogie woogie dance, dance, rock steady dance. I wanna dance with my baby tonight. Boogie woogie dance, dance, rock steady dance. I wanna dance with my baby tonight. Boogie woogie dance, dance, rock steady dance. I wanna dance with my baby tonight. Boogie woogie, rock steady dance. Boogie woogie, rock steady dance. Boogie woogie, rock steady dance. Boogie woogie, rock steady dance. Dopodiché naturalmente mi scuso con soprattutto con Giancarlo Norese, che oggi non parliamo tanto di arte contemporanea, ma ci stiamo ascoltando dei gran pezzi, per cui tra l'altro ho scoperto su YouTube, ho scoperto l'altro giorno questa band che si chiama Lonely Gimmick. Praticamente sto tizio dei Lonely Gimmick commenta in ogni pezzo importante che trovate su YouTube, che si scrive: ah sì, bello, però andatevi ad ascoltare i Lonely Gimmick. E dunque vabbè, alla fine uno lo vede una volta, lo vede due volte, lo vede tre volte, alla fine uno va a cliccare e va a cercare sti Lonely Gimmick su YouTube, e in effetti non spaccano, si ascoltano volentieri. E allora adesso vi faccio ascoltare Grumpy Days dei Lonely Gimmick. Yeah. Ok, ready. I didn't know. all my fears of danger. Stefano. Coxo spaziale. Che fra l'altro sti Lonely Gimmick, secondo me è un tipo solo, però giustamente si fa chiamare Lonely Gimmick perché in effetti l'unione fa la forza, anche se sei una band di uno, no? E fra l'altro ha fatto anche dentro al suo canale YouTube, ha fatto questo remake di Revolution dei Beatles, che merita, per cui vi faccio sentire anche Revolution Lonely Gimmick Remix. Don't you know that you can come out? We all want to change the world, Dopodiché naturalmente è arrivata l'ora del nostro l'angolo della menzione. E visto che questa settimana ci sono un po' di robe, cominciamo pure. Domattina, martedì 9 maggio alle ore 13, inaugura Leonardo Casadei una mostra fotografica intitolata I colori dei muri. La mostra è dal 9 al 19 maggio 2023 e questo è all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in Viale Aldo Moro 50 a Bologna. Giovedì 11 maggio alle 18.30 invece nasce Pietro, un nuovo spazio dedicato all'arte e alla cultura nel centro storico di Bologna, al piano terra del prestigioso Palazzo Tanari in via Galliera 20. Una piccola cappella di famiglia interamente affrescata risalente alla fine del Settecento e un salone adiacente a essa, a pianta quadrata, con volte decorate su ispirazione dei giardini all'italiana, saranno i suggestivi luoghi che ospiteranno il progetto. Il primo artista invitato a inaugurare lo spazio è Marcello Tedesco, la cui ricerca negli anni si è connotata per la capacità di evolversi autonomamente in vari ambiti e discipline, al fine di mettere a punto un linguaggio capace di esplorare l'insondabile complessità dell'essere umano, conosciuto e narrato oltre ogni opaco conformismo. Abbiamo sentito Marcello che ci racconta cosa succede. Marcello Tedesco, Experience Exhibition, questo è il titolo della mostra, inaugura uno spazio nuovo, cosa succede? Non è il mio spazio, è un progetto che ho con, che si chiama Pietro, con l'architetto Simone Gheduzzi, che è il promotore di questa iniziativa. Il titolo dello spazio, il nome dello spazio è Pietro, e inaugura con una mia mostra e poi in lo seguito... diceva sempre mio nonno, si chiama Pietro, Pietro, per cui deve tornare indietro. Pietro è un po' un nome magico per Simone perché richiama, diciamo, la pietra, che è l'elemento per costruire l'architettura. Siccome il progetto avrà sempre un po' a che vedere con l'indagine architettonica, così gli ha dato questo nome molto molto suggestivo. Ma dai, sei di Bologna, non lo sapevo, sai? Pare. Sei un autentico bolognese anche tu, incredibile. Sono nato al Sant'Orsola, pare. Ah, vedi? Molto bene. E dunque, in questa mostra che cosa ci porti? Questa, diciamo... Se vuoi spoilerarla, perché insomma inaugura... Inaugura l'11 maggio. Mm. Diciamo che questa è una mostra che racconta anche un po' la tipologia del progetto. Quindi sono tutte opere inedite di alcune sculture che ho fatto nel corso degli ultimi anni ed è tutto un filone della mia ricerca legata all'architettura. Nella mia idea l'architettura è una sorta di super linguaggio dove... E poi soprattutto è un'arte che ha a che vedere molto con la vita dell'uomo, quindi è un linguaggio che mi ha molto sempre interessato, però non avevo mai trovato il contesto giusto e l'occasione giusta per esporre queste opere architettoniche che sono anche per certi versi una sintesi di questi miei ultimi 4 anni da direttore e curatore di uno spazio. Sono tutte opere un po' segrete, nel senso che io spesso ho anche preparato alcuni progetti prima di tutto con la scultura. L'idea un po' generale è quella legata da una parte all'indagine sull'essere umano e dall'altra al concetto di trasformazione, quindi la mia scultura essenzialmente è sempre un processo di trasformazione della materia e di alcune forze che appunto sono in grado di trasformarla anche in un'ottica, diciamo, sociale. Fantastico, ci vediamo giovedì alle 18.30 in via Galliera 20. Grazie Stefano. Grazie a te. Grazie, arrivederci. La mostra è dal 12 maggio al 29 giugno, lo spazio è visitabile su appuntamento dal giovedì al sabato scrivendo con anticipo a info@museotemporaneonavile.org oppure telefonando al numero 338 566 1021. Questo è Pietro in via Galliera 20 al piano terra a Bologna. Venerdì 12 maggio alle ore 18 abbiamo DAS con collagene, proteine culturali numero 13. Abbiamo San Giorgio Cibernetico, Noemi Pittala e Fabio Orecchini. Finiti di San Giorgio Cibernetico nell'open space di DAS, il limite percettivo che caratterizza ogni essere vivente è stato nella storia continuamente oggetto di narrazioni di vicende mitiche. L'onniscienza, l'acquisizione illimitata di sapere, la previsione del proprio destino sono temi affrontati fin dalla notte dei tempi. L'opera letteraria più antica di cui si abbia documentazione, il poema sumero di Gilgamesh esamina questi temi attraverso l'incontro del protagonista con l'esperienza della morte e la sua accettazione. Gilgamesh, insieme al racconto di Boaz, la biblioteca di Babele, sono due nodi testuali che si intrecciano dando vita ad una nuova narrazione scaturita dall'incontro del protagonista con la propria immagine virtuale e tesa ad indagare i nessi tra il concetto di mito, metaverso e limite. Dopodiché nella sala multimediale abbiamo Antigone vuole abortire di Noemi Pitalà. Antigone vuole abortire è un dialogo impossibile sul corpo e sull'autodeterminazione tra un obiettore di coscienza antiabortista e Antigone, icona secolare dell'obiezione, oggi portatrice delle nuove giovani istanze del contemporaneo. Si tratta di due generazioni divise da spazio-tempo che provano a parlare di vita e fallimento attraverso immagini e performance. Che tipo di scelta ha senso fare? Ho il permesso di farla? Dopodiché abbiamo Nemat Alcesti di Fabio Orecchini nella sala polivalente. Contro la natura, nel tentativo di definire una geomistica ctonia, l'artista sceglie di rappresentare la terra come terra, come un vuoto pieno, corpus di narrazioni poematiche e di possibili immaginari interspecie, da estrarre dal midollo terrestre e dalle viscere in una lingua primordiale. L'opera coemerge, dissotterrata dalle rovine di una frana, cognitiva ancor prima che geologica. Il rito scenico si ricompone di stagione in stagione, ad agire con l'artista sono lombrichi, larve, ma anche corde, secchi, tinozze. Acqua con zolfo, acqua con verde rame. Questo, tutto questo succede dalle 18 in poi di venerdì a DAS, dispositivo arti sperimentali, in via del Porto 11/2. Ingresso gratuito con tessera ARCI 2022-2023. Invece lunedì prossimo alle 10.30 di mattina inaugura una mostra all'Accademia di Belle Arti di Bologna che si intitola La precisione del multiplo, l'opera incisoria di Leon Pericles, credo di pronunciarlo bene, Pericles, Leon Pericles perché è australiano. La mostra a cura di Manuela Candini, di Agim Sacco e dell'ufficio Erasmus della professoressa Maria Rita Bentini dell'Accademia di Belle Arti. L'incisione tradizionale si distingue per la rigorosità del lavoro incisorio sulla lastra e dal procedimento di stampa, la tiratura anch'esso determinato da regole e metodo. Leon Pericles aggiunge oggetti, acquerella, manipola le stampe della tiratura. Un umore bizzarro è parte della poetica di Leon. Spesso i giochi di parole, curiosi fatti storici, anche inventati, caratterizzano la sua opera. L'inaugurazione è nell'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. La mostra, visitabile ad ingresso libero, resterà aperta fino al 31 maggio 2023, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13. Questa è l'Accademia di Belle Arti di Bologna in via Belle Arti 54 a Bologna. Like his aggressor, he's green around the underside. di periferia e questo è Coxo Spaziale. Che altro dire? In realtà non abbiamo menzionato un sacco di mostre che hanno aperto, cioè alcune cose le avevo menzionate il 25 aprile appunto, sotto al palco del concerto del 25 aprile in via del Fratello, ma alcune non sapevo ancora che sarebbero successe. Per esempio hanno inaugurato un sacco di mostre la settimana scorsa, anzi alcune ahimè devo ancora andarle a vedere, ma avrò modo di andarci questa settimana, ovvero che ne so, Alchemilla con questa mostra che ha un titolo bellissimo che in questo momento non mi viene in mente. Sabato pomeriggio ha inaugurato un'altra collettiva, anche questa con un bel titolo che non mi ricordo di nuovo, a Galleria Più. E poi c'è stato il Museo Baracca di Lugo, anche quello non sono riuscito ad andare, con un'altra collettiva che questa volta invece mi ricordo che ha come sottotitolo 100 cavalli per Francesco Baracca. E devo andare al Museo Baracca di Lugo prima o poi. Comunque vabbè, non volevo tediarvi con queste cose. Ah no, poi anche la De Foscherari ha aperto una collettiva, una doppia personale, non mi ricordo più. È che ultimamente mi arrivano questi comunicati di opening il giorno prima dell'opening, e ahimè Coxo Spaziale è a lunedì, e poi appunto la settimana scorsa c'era il concerto del 1° maggio, per cui non c'era modo di inserire l'angolo della menzione da nessuna parte. Dunque vabbè, tanto credo che sopravviviate lo stesso anche senza Coxo Spaziale che vi dice dove andare a vedere che cosa. E io fra l'altro questa settimana, appunto oggi la puntata è registrata proprio per il fatto che sono in giro in altri lidi e avrò modo di andare a vedere cose che non c'entrano niente con la località bolognese, però appunto succedono un sacco di cose soprattutto attorno all'Accademia, e vabbè, ne abbiamo parlato prima, e poi avremo lunedì prossimo avremo appunto un po' di ospiti per via di questo 50 minuti di riparazioni, con cui ne parleremo con Daniele Campagnoli, che è uno degli organizzatori di queste dirette che troveremo qui su Radio Città Fujiko, fra l'altro al venerdì mattina se non vado errato, e poi appunto avremo anche un ospite australiano che ci racconterà della sua mostra di incisione che succede sempre nei corridoi dell'Accademia. Adesso il fatto che io insegni in Accademia da quest'anno forse aumenta le probabilità che parleremo dell'Accademia di Belle Arti di Bologna in questa trasmissione un po' troppo spesso, però vabbè, dai, voglio dire, dopo Berlusconi qualunque tipo di conflitto di interessi penso che ci si possa passare sopra, anche se naturalmente il nostro direttore è attentissimo e controlla che noi non parliamo troppo dei fatti nostri, ma insomma il mondo dell'arte bolognese è quello che è, non siamo in tantissimi, anzi se per caso state ascoltando questa cosa e io non ho mai menzionato quello che state facendo, voi che siete magari artisti, artigiani, designer o quello che è, e appunto volete essere intervistati da Coxo Spaziale o comunque essere menzionati nell'angolo della menzione quando fate delle mostre, mi raccomando mettete questo email nella vostra mailing list, ovvero coxospaziale@gmail.com. Molto facile da ricordare e anche facile da scrivere. Dopodiché mi stavo dimenticando che è uscito un nuovo pezzo di Camilla Pandozzi. Si intitola Luci Sculture e ce lo andiamo ad ascoltare subito. Resta immobile e ti vedrò per l'ultima volta, dove non può esistere ogni singola risposta. Resta qui per me e ti vedrò rinascere ogni singola volta che sentito strada aspetta. Ogni tuo ologramma che mi fa sentire distrutta, come quella luce che svanisce nell'acqua. Tutti quegli occhi che addosso ti portano via, tutti i pensieri che dentro non trovano l'uscita. Perché sai che tutto quello che ho è pensare a noi due, e sai che tutto è pensare a noi due, pensare a noi due, tutto quello che ho. La tua felicità era chiusa in un pugno di sabbia, come quelle foto scattate dalla rabbia. Sento quei rami spezzarsi come fulmini in tempesta, vedo quei quadri formarsi come rondini in partenza. Ma tu resta immobile dove non puoi esistere, ogni singola mossa che ci fa vedere, tutti quegli occhi che addosso ti portano via, tutti i pensieri che dentro non trovano l'uscita. Perché sai che tutto quello che ho è pensare a noi due, e sai che tutto quello che ho è pensare a noi due, pensare a noi due, tutto quello che ho. Tutti quegli occhi che addosso ti portano via, tutti i pensieri che dentro non trovano l'uscita. Perché sai che tutto quello che ho è pensare a noi due, e sai che tutto quello che ho è pensare a noi due, pensare a noi due, tutto quello che ho, pensare a noi due, tutto quello che ho, pensare a noi due, tutto quello che io ho, pensare a noi due, tutto quello che. Ciao, sono Emily e questo è Corso Spaziale. Fatto sentire un pezzo come si dice, un pezzo strumentale, che di solito appunto i pezzi strumentali li uso come musica di sottofondo mentre parlo, ma questa era Jenny Owen Youngs, per cui come sapete è una delle mie cantanti preferite, che in effetti nel momento in cui fa un pezzo strumentale ha abbastanza poco senso, nel senso che ha una voce spettacolare lei, però se tu mi fai dei pezzi strumentali dove non canti la tua voce non si sente, per cui vabbè, adesso magari le mando un direct su Instagram dicendo ok, bello il tuo disco strumentale, però magari no, cioè magari cantaci sopra ogni tanto, no vabbè, lasciamo stare. Comunque va bene, che dire, direi che la puntata è piuttosto finita. Spero che vi siate annoiati troppo. La settimana prossima saremo di nuovo in studio con un po' di ospiti, per cui non mancate naturalmente di ascoltarci, sempre dalle 20 alle 21, sempre sul 103.1 FM di Radio Città Fujiko e anche in differita su Radio Pang in Virginia, credo che sia in Virginia, sai che non mi ricordo mai. E comunque salutiamo i nostri amici italo-statunitensi che disagiatamente ci ascoltano su Radio Pang online dal giorno successivo alla trasmissione. E poi niente, naturalmente come al solito vi lascio con le fantastiche parole del nostro Alessandro Canella, direttore di radio, che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Chasing a fly nearby the roses where shit hides. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale. I saw a bird chasing a fly nearby the roses where shit hides. All these days are shit and roses. All these days are shit and roses. All these days are shit and roses. All these days are shit and roses. Vi lascio con i fantastici Panta 80 e poi naturalmente vi aspetto lunedì prossimo sempre dalle 20 alle 21 sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM, la vostra radiolina del cuore. Ciao. All these days are shit and all these days are shit and all these days are shit and all these days are shit and